Matteo, capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli, dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti, legano dei pesi gravi, li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore. E chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché ne vi entrate voi, ne lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciar le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa, di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete dal giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne fragellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra,